cose impossibili. Ciò che mi ha condotto alla conversione tra le tante concause è stato il senso di insicurezza che avvertivo nel campo della morale. Non trovavo assoluti, il bene ed il male mutavano secondo i tempi e secondo i punti di vista. Una volta diventato cristiano, trovai nella parola di Dio un fondamento sicuro. Ma ben presto mi accorsi che anche questa era soggetta ad interpretazioni. E questa esperienza mi causò nuovamente quel senso di insicurezza. Essendo però la Bibbia la parola di Dio, continuai a leggerla affinché mi infondesse le certezze alle quali ambivo. Così, col passare degli anni, ho trovato delle certezze che, come tali, non sono soggette ad interpretazioni. Come posso essere così sicuro? Certo, non basandomi sul mio giudizio, ma sul modo in cui la parola di Dio si esprime. Vi sono affermazioni che contengono la parola impossibile o il sinonimo non può. Queste proposizioni non lasciano dubbi. Ciò che si afferma non può essere messo in discussione. Secondo una mia abitudine, ho affrontato questo argomento classificandolo per soggetti. Vedremo quindi queste cose impossibili relativamente alla parola di Dio, a Dio stesso, alla salvezza, alla vita cristiana, alla perdita della salvezza e alla morte. 1. Cose impossibili relativamente alla Scrittura. Giovanni 10:35, Matteo 5, 17-18 è impossibile annullare la Scrittura. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire ma per portare. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha detto espressamente che tutto ciò che è scritto nella parola di Dio si è già adempiuto in parte e il resto si adempirà nel tempo. È vero che ogni religione ha i suoi testi sacri, ma nessuno di questi ha la pretesa ad avere validità eterna. Le parole di Dio contenute nella Bibbia hanno invece valenza eterna. Le sue promesse, nel bene e nel male, si avvereranno. Se così non fosse, i cristiani sarebbero le persone più miserabili di questo mondo. Nella Bibbia, infatti, sono contenute le promesse più meravigliose, se ne deduce che più grandi sono le promesse, maggiori sarebbero l'inganno e la delusione se queste fossero false. Qualcuno disse, onestamente, avrei molta più paura di condurre una vita ingannandomi e arrivare a scoprire poi, quando sarebbe troppo tardi, che la religione cristiana era vera, piuttosto che di ingannarmi conducendo la mia esistenza, credendola vera. Per i cristiani è quindi un bene che la Bibbia non possa essere annullata. Per i perduti invece è una tragedia. Purtroppo a loro è riservata una condanna eterna. Un ateo diceva: «Vi è una sola cosa che guasta tutto il piacere della mia vita, il timore che la Bibbia possa essere veritiera. La parola di Dio è ineguagliabile, è unica perché, se sei abbattuto, ti darà conforto. Se sei esaltato, ti darà moderazione. Se sei freddo, ti farà ardente. Se sei agitato, ti renderà sereno. Se sei affamato, ti sazierà. Se sei assetato, ti disseterà. Se sei arido, ti annaffierà. Se sei debole, ti renderà forte. Se sei duro, ti darà dolcezza. Se sei nel buio, ti illuminerà. Se sei nel dubbio, ti darà certezza. Se sei nell'ignoranza, ti darà sapienza. Se hai paura, ti darà coraggio. Se sei audace, ti farà prudente. Se sei nell'angoscia, ti darà pace. Se sei nella pace, te la crescerà. Se sei innocente, ti proteggerà. Se sei peccatore, ti perdonerà. Se sei vile, ti farà ardito. Se sei perduto, ti ritroverà. Se non l'ascolti, la rimpiangerai. Se la disprezzi, sarà la tua condanna. E la parola necessaria nel diluvio delle parole inutili che ti tocca sentire. Se leggi la parola di Dio con fede, scoprirai che, in essa, c'è saggezza per chi è confuso, felicità per lo scoraggiato, appagamento per l'angustiato, riposo per l'oppresso, guarigione per l'ammalato, amore per chi è solo, accorgimento per i semplici, riflessione per il giovane. Essa è soprannaturale nella sua origine, eterna nella durata, inesprimibile nel suo valore, infinita nel suo scopo, divina per il suo autore, umana perché erano uomini coloro che l'hanno scritta. rigeneratrice, in potenza, infallibile, in autorità, universale, in interesse, personale, nella sua applicazione, ispirata, nella sua totalità. Conviene leggere la parola di Dio perché essa sta al credente come una cartina al turista, un bastone al pellegrino, la bussola al marinaio, l'arma al soldato, in definitiva la Bibbia, e, data in questa, sarà dischiusa in cielo e stabilita in eterno. Dobbiamo riconoscerlo, la Bibbia occupa un posto unico nella nostra storia e nella nostra società. Se abbiamo scelto la Bibbia, anziché le quattro raccolte dei Veda, o il canone sanscrito del buddismo, o il Corano dell'Islam, è perché essa ha modellato la nostra cultura, perché è la base della nostra civiltà. Ciò che ai nostri occhi rende diversa la parola di Dio rispetto a tutti gli altri libri sacri è, se non altro, il fatto che la nostra storia, la nostra letteratura, la nostra filosofia, la nostra tradizione giuridica, così come molti fra i quadri conservati nei nostri musei e molti dei monumenti che ornano le nostre città, tutte le componenti, insomma, di ciò che chiamiamo civiltà, trovano proprio nella Sacra Scrittura le loro radici e la fonte di ispirazione. Giustamente qualcuno ha fatto notare che, nella scuola italiana di tutto questo, non ci si ponga neppure il problema. Com'è possibile, infatti, laurearsi in lettere, storia, filosofia, arte, senza neppure sapere chi furono? Abramo, Mosè, Davide o Giobbe? Due cose impossibili riguardo a Dio. A Tito 1, 1 a 2, numeri 23 e 19 è impossibile per Dio mentire. O Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, secondo la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità, che è secondo pietà, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte le età da Dio, che non può mentire. O Dio non è un uomo, da dover mentire, né un figlio d'uomo, da doversi pentire. Quando ha detto, una cosa non la farà, o quando ha parlato non manterrà la parola. Ogni popolo crede ad un'entità superiore, ad un essere soprannaturale. Il popolo di Israele crede in Dio, come tutti gli altri. La divinità di questo popolo, però, è una persona che essi conoscono e che ha delle sue precise caratteristiche. Una fra queste è la sincerità assoluta. Quest'aspetto merita di essere preso in seria considerazione. A che servirebbe la fede in un Dio la cui parola non è affidabile? Dal momento che la fede cristiana si basa sulla testimonianza di Dio, 1 Giovanni 5, 9, 13, se egli mentisse, come sarebbe possibile essere sereni e rallegrarsi delle sue promesse? Dio ha promesso la vita eterna a coloro che credono nell'opera sostitutiva e redentrice di Cristo, quindi coloro che hanno una simile fede posseggono la vita eterna. Non è dunque una loro presunzione. L'affermare d'essere certi di andare in cielo è un atto che, al contrario, glorifica Dio e Gesù Cristo, perché è impossibile che Dio menta. Il fatto che Dio non menta ha però una drammatica implicazione. Egli afferma anche che chi non ha scelto Gesù Cristo come Salvatore e Signore è perduto. Nessuno, me compreso, vorrebbe accettare questa verità, ma se Dio afferma che chi non crede è irrimediabilmente separato da Lui, questo è vero. È indispensabile credere di essere perduti per ottenere la salvezza. Non vi è salvezza se non vi è prima perdizione. Non vi è gioia se prima non vi è disperazione. B. Giacomo 1 e 13 è impossibile essere tentati da Dio. Nessuno, quand è tentato, dica, sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. La tentazione è un'esperienza che non rientra nelle vie di Dio, e non può, quindi, procedere da Lui. L'uomo, invece, è tentato dalla propria concupiscenza, dal mondo e dal diavolo. Per questo, ognuno di noi non deve mettersi in situazioni favorevoli all'insorgere della tentazione, o dare occasione al diavolo di tentarlo. Nessuno di noi vorrebbe essere tentato, ma la tentazione ha il suo lato positivo, essa infatti fortifica la fede. È stato notato come le piante, quando siano sbattute da forti venti, allunghino le radici nel sottosuolo per avere una maggiore stabilità. così è della fede. Quando è provata, ci costringe a trovare rifugio in Dio per non cadere. Inoltre, vi è una promessa che non deve essere dimenticata. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. 1 Corinzi 10:13. Sì, Dio permette al diavolo di tentare i suoi figli, egli però ha dato loro i mezzi affinché possano vincerla. Sei tentato? Sappi che non è Dio che ti tenta, perché è impossibile che egli tenti qualcuno. C. 2 Timoteo 2:13 è impossibile che Dio rinneghi ciò che egli ha detto. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Dio non mente ed è fedele. Egli mantiene ogni promessa, anche quando noi non manteniamo le nostre. Quanto egli è diverso da noi uomini, che dimentichiamo le promesse fatte. Venire meno ad una promessa è grave. Venendo meno ad una parola data, un soldato può rischiare la morte. Un coniuge, che non rimanga fedele alla parola data, cade in adulterio o spinge il proprio partner ad essere infedele. Un amico, che non mantenga la promessa di restituirci una forte somma prestatagli, perde la nostra stima e può crearci grossi problemi finanziari. Una figlia che promette ai genitori di andare a studiare con l'amica e poi vada con dei tossicodipendenti può arrivare a drogarsi. Non mantenere un impegno o una promessa produce del male a noi stessi e agli altri. Credere in Dio, che onora sempre le sue promesse, è una delle gioie del cristiano. De Esodo 33, 20. L'uomo, nella sua dimensione terrena, non può vedere il Dio trino su questa terra. L'Eterno disse ancora a Mosè, «Tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere». Quello che l'Eterno disse a Mosè non deve essere trascurato, neppure quando alcune persone che abbiano avuto certe esperienze affermino di aver visto Dio. Ancora una volta si tratta di accettare per vero ciò che è scritto e mettere in dubbio la liceità della propria esperienza. Nel Nuovo Testamento troviamo scritto che Satana si può trasformare in angelo di luce, quindi è proprio vero ciò che recita il proverbio. Non è oro tutto ciò che luccica. Non dobbiamo dimenticare che tutto ciò che appartiene al soprannaturale è o di Satana o di Dio. Se l'Eterno afferma che è impossibile per l'uomo vederlo nella sua gloria, occorre rigettare umilmente ogni esperienza che contraddica ciò che è scritto. Le apparizioni dei santi e della Madonna sono da collocare in quest'ambito. Secondo la Scrittura, i santi sono tutti i figli di Dio viventi. La Madonna quindi non esiste, perché Maria, la madre di Gesù, non è né immacolata né vergine. Non è immacolata perché ha avuto dei genitori peccatori, come scritto non vi è nessun giusto neppure uno. Non è rimasta vergine dopo la nascita di Gesù, sia perché ha avuto un bambino, sia perché Giuseppe ebbe rapporti sessuali con lei dopo la nascita di Gesù. Questo è ciò che troviamo scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 1 e versetto 25. 3. Cose impossibili riguardo a Cristo. A. Matteo 26, 42. Era impossibile che Gesù non morisse. Gesù di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo, «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». Gesù è venuto per salvare l'umanità, lo disse più volte. Anzi, aspettava con ansia il momento di deporre la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Nel Getsemani, quando si trovò a faccia con l'imminente realtà, Gesù tuttavia chiese al Padre se era possibile evitare la croce. La preghiera di Gesù evidenzia quanto, nonostante egli fosse Dio, la croce fosse non di meno per lui un prezzo molto alto. Non conosciamo la risposta diretta di Dio. Da come si svolsero in seguito i fatti, comprendiamo come, per Dio, non vi fosse altro mezzo per salvare l'umanità che la morte di suo figlio. Ubbidiente, Gesù accettò la volontà del Padre. Ciò che avvenne nel Getsemani deve farci riflettere. Sostenere che si possa essere salvati mediante le proprie opere è un oltraggio nei riguardi di Dio e dell'opera di Gesù Cristo. Se fosse stato possibile per l'uomo salvarsi mediante buone opere o mediante l'adesione ad una religione, Dio avrebbe evitato di mandare suo figlio a morire in croce. Ciò, però, non era possibile. B. Atti 2:24. Era impossibile che Gesù non resuscitasse. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi sapete, egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste, e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste, ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Cristo era Dio. Aveva anche una natura umana e, come tale, era soggetto alla morte. Non credere alla resurrezione di Gesù significa negare non tanto un fatto storico, ma la sua divinità. Più volte ho avuto occasione di chiedere a persone che si definiscono cristiane e frequentano la religione cattolica romana e che affermano di credere in Gesù, se credono alla resurrezione. La quasi totalità mi ha risposto che dopo la morte non vi è nulla. Come è dunque possibile credere in Gesù e non credere alla sua resurrezione? Che tipo di fede hanno coloro che non credono che Gesù sia risorto e che i morti non risorgano? Credere in Gesù significa credere che la morte non poteva trattenerlo, che era impossibile che Gesù rimanesse nella tomba oltre il terzo giorno. 4. Cose impossibili riguardo alla salvezza. Il desiderio d'ogni essere umano, a prescindere dalla religione alla quale appartiene, è quello di accedere al cielo, di andare in un luogo di beatitudine. Facciamo alcune considerazioni in relazione a questo argomento. A. Matteo 19:25-26 è impossibile che gli uomini si salvino autonomamente. Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico che un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli». E ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. All'udire ciò, i suoi discepoli furono grandemente sbigottiti e dissero: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: «Per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile». La sentenza di Gesù dovrebbe far sprofondare nella più nera disperazione ogni essere umano. Gli uomini non possono fare nulla per salvarsi. La soluzione offerta da Gesù dovrebbe riempire di giubilo. Il rimedio che Dio ha ideato è la fede in Gesù. Un uomo, quindi, non può essere salvato se prima non crede che gli sia impossibile salvarsi con i propri mezzi. Se gli uomini credessero a questa verità, sparirebbero tutte le religioni che insegnano che facendo il bene si guadagna il cielo. Fatta questa premessa, possiamo comprendere le varie esortazioni di Gesù mirate a spronare il genere umano a fare il bene. Perché l'uomo dovrebbe fare il bene quando questo non contribuisce alla salvezza? Vediamo 4 ragioni. 1. Quello che Gesù disse non era rivolto a tutti, ma ai suoi discepoli e a coloro che volevano fare la sua volontà. È inutile quindi chiedere alle persone di essere oneste e fedeli quando queste non abbiano accettato colui che ha insegnato questo. Non voglio certamente scoraggiare tutti coloro che intendano fare il bene. Se le persone sono giuste ed oneste, ciò va ovviamente a vantaggio loro e della società, anche se questo non contribuisce per nulla alla loro salvezza. 2. Fare la volontà di Dio è una dimostrazione d'amore verso di Lui. Gesù disse: «Chi mi ama, osserva i miei comandamenti». Compiere buone opere è, quindi, lodevole, ma se queste sono fatte in vista della salvezza, sono inutili, mentre, se fatte per amore, esse saranno ricompensate lautamente. 3. Gesù vuole che si faccia il bene per arginare il male che il diavolo sta facendo. Vivere correttamente, quindi, è sempre positivo, anche perché chi compie le opere della luce viene alla luce. Lo scopo del diavolo è tormentare le persone. Lo scopo di Dio nell'invitarci a fare delle buone opere è quello di farci stare bene. 4. Il cristiano deve essere santo, in pratica compiere opere buone, perché Dio è santo. Si deve rilevare che, anche se le opere non salvano, esse devono, lo stesso, essere compiute da ogni figlio di Dio. Perché, in tal modo, quest'ultimo esprime le caratteristiche di suo padre. Conclusione. Agli uomini è impossibile salvarsi mediante le opere, ma essi non possono essere sicuri di essere salvati senza le suddette. B. Romani 8, 3 e impossibile alla legge salvare l'uomo. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita. Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio Figlio in carne simile a quella del peccato, e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne. Poiché la legge non può salvare, Dio ha mandato suo Figlio per salvare l'uomo. Questo aspetto è molto importante. Sono troppe le persone che continuano ad essere convinte che l'osservanza dei comandamenti di Dio conduca alla salvezza. Qualcuno si chiederà, eppure Dio ha dato una legge. Non è suo ordine l'osservanza della sua legge? A che scopo Dio ci ha dato la sua legge se questa non salva? Consideriamo 5 aspetti. 1. Dio ha dato la sua legge per rivelare la sua volontà e il suo carattere. Il Dio dei cristiani non è un Dio vago, impersonale. Egli ci ha dato delle leggi, affinché l'uomo mediante queste conosca chi egli sia. 2. Dio ha dato la sua legge per rivelare la sua santità. La legge di Dio non rivela solo il carattere del suo legislatore, ma anche la sua morale, la sua santità. Giacché la morale dell'uomo è soggettiva, parziale a causa del peccato, Dio ha voluto definire in un modo inequivocabile ciò che è bene e ciò che è male. 3. Dio ha dato la sua legge per mettere in evidenza la natura peccatrice dell'uomo. Non possiamo sapere se uno è zoppo fino a quando non gli ordiniamo di camminare, o se uno è muto fino a quando non lo interroghiamo. Così è per la legge di Dio, con le sue esigenze, essa evidenzia l'incapacità da parte dell'essere umano a metterla in pratica. 4. Dio ha dato la sua legge perché l'uomo si renda conto di essere un colpevole. Nell'uomo è innato l'istinto di essere una brava persona. Nessuna opinione o ragionamento riuscirà mai a sradicare tale concetto, così profondamente annidato nel suo intimo. La legge di Dio ha anche questo scopo, riuscire, dove non riesce il ragionamento umano. L'uomo, che sperimenti la sua incapacità di ubbidire alla legge di Dio, trova, nel proprio fallimento, anche la sua unica possibilità di convincersi d'essere un trasgressore, vale a dire un peccatore. 5. Dio ha dato la sua legge perché l'uomo, cosciente di essere mancante, cerchi un salvatore. Il fine ultimo della legge di Dio non è tanto l'ubbidienza quanto rendere l'uomo cosciente di essere un peccatore perduto e quindi bisognoso di un salvatore. Coloro i quali osservino la legge di Dio, ma non raggiungano il fine per il quale questa è stata istituita, hanno fallito nel loro obiettivo. B. Ebrei 6, 4 a 6 e impossibile il ravvedimento per chi rifiuti coscientemente l'Evangelo. Quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento. Vi sono persone. Se rifiutano tale testimonianza, è impossibile che esse in seguito possano convertirsi. Questo è stato il motivo che mi ha indotto a non lasciare trascorrere molto tempo da quando iniziai ad ascoltare il messaggio rivoltomi da Dio a quando decisi di rispondere di sì al suo appello. Con le lacrime agli occhi ho implorato Dio affinché non dovessi essere toccato da questa esperienza. È vero che Dio è amore, è vero che Egli parla più volte. È anche vero però che Dio non porta pazienza per sempre. Affermare che Dio aspetta sempre, perdona sempre, rende l'uomo orgoglioso della sua volontà. Al contrario, rendersi conto che spetta a Dio l'ultima parola e che Egli non è a nostra disposizione, produce nell'uomo un santo timore nei confronti del suo Creatore. Rimandare l'invito di Dio significa esporsi sempre più al pericolo di trovare chiusa definitivamente la porta del cielo. Matteo 25:10. Un giorno un medico fu chiamato d'urgenza, al capezzale di un moribondo. Compresa subito la gravità della situazione, il medico, che era cristiano, invitò il paziente a prepararsi ad incontrare Dio. Con sua gran sorpresa il medico ricevette la seguente risposta: «Ci fu un tempo in cui sentii una forte chiamata ad arrendermi a Dio. Rifiutai tale invito e, da quel giorno, non ho più avuto nessun sentimento verso le cose religiose. Ora muoio senza Dio e senza speranza». Detto questo, spirò. C. Marco 2, 1 a 7 è impossibile per l'uomo rimettere i peccati. Alcuni giorni dopo, egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa. E subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico, portato da 4 uomini. Ma, non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto ove era Gesù, e fatta un'apertura calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Come Gesù vide la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Or vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro: «Perché mai costui parla in questo modo?». Egli bestemmia: «Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?». La domanda degli scribi e la relativa risposta non lascia dubbi: solo Dio perdona i peccati. Questa è una verità scontata, ma insidiata dalla cultura nella quale viviamo. Vi sono persone, infatti, che ritengono di avere l'autorità di rimettere i peccati. Solo Dio può farlo. L'uomo non può. Se potesse, come poteva Gesù allora? Egli non sarebbe più solo un uomo. Essendo impossibile per l'uomo rimettere i peccati altrui, ne consegue che tutti coloro i cui peccati siano stati rimessi da un uomo li abbiano ancora e siano sotto l'ira di Dio. Quale delusione eterna spetterà a coloro che andranno alla presenza di Dio senza che i loro peccati siano stati perdonati? In merito a quest'argomento, dobbiamo però aggiungere che vi sono dei peccati che dobbiamo rimettere, e sono quelli che nostro fratello compie nei nostri confronti. Ma non vi è neppure l'ombra del pensiero, nella parola di Dio, che una persona abbia l'autorità di rimettere i peccati commessi verso Dio. Did Giovanni 3, 1 a 7 è impossibile essere salvati senza avere realizzato la nuova nascita. Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose e disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?». Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere di nuovo. A me non importa quale fede tu professi. Non mi interessa la tua condotta morale. Non è importante quanto tu abbia capito della Bibbia. Ma ti chiedo: sei tu nato di nuovo? Hai sperimentato la rigenerazione dello Spirito Santo? Sei entrato in un giorno preciso, per fede, nel regno di Dio? Ciò che importa è che tu risponda sinceramente ed affermativamente a queste domande, perché se non sei nato di nuovo, non puoi entrare nel regno di Dio. Tu affermerai forse che credi in Dio e in Gesù Cristo. Sosterrai che hai fatto un'esperienza religiosa che ti ha avvicinato a Dio, che ascolti e leggi e volentieri la Bibbia. Tutto ciò è lodevole, ma non garantisce che tu abbia realizzato la nuova nascita. mediante la quale hai la certezza della vita eterna. Se nella tua vita non esiste un momento preciso che ti ricordi la tua scelta per Gesù Cristo come il tuo Salvatore e Signore senza alcune riserve, potrai essere un religioso come Nicodemo, ma non sei un nato di nuovo. E Ebrei 10:1-4, è impossibile che i sacrifici possano togliere i peccati. La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente, anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici, invece, si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Ogni religione ha i suoi riti e sacrifici, tutti allo scopo di procacciare il favore della divinità, oppure di espiare un fallo, un peccato. I sacrifici che gli ebrei facevano erano stati ordinati da Dio perché, mediante tale rito, egli aveva promesso di togliere i peccati. Gli ebrei finirono col pensare che fosse il sacrificio in sé a togliere i peccati. Per questo l'autore della lettera agli ebrei specifica che gli animali offerti in sacrificio all'Eterno non toglievano il peccato, ma simboleggiavano il sacrificio di Cristo, che ha una validità universale ed eterna. Oggi molte persone osservano scrupolosamente i comandamenti di Dio, senza aver capito che essi non sono per questo resi giusti davanti a Lui. Ciò che toglie i peccati è il sacrificio di Cristo Gesù, mediante il quale egli ha reso giusto ogni uomo davanti a Dio. Credere in Gesù Cristo significa accettare che la sua opera, solo ed unicamente questa, sia in grado di rendermi giusto al cospetto di Dio. Ecco perché i cristiani non offrono dei sacrifici d'animali. Essendo stati perdonati una volta per sempre, essi sanno di non essere più ritenuti colpevoli. Se non fossi cristiano, direi che questa è la più gran fandonia che una persona potesse inventare: non essere più peccatore davanti a Dio. Eppure, tutto questo è possibile. È impossibile che un sacrificio possa togliere i peccati, è altresì impossibile che il sacrificio di Cristo non mi giustifichi davanti a Dio. Se così non fosse, l'uomo sarebbe la creatura più disperata di questa terra. Se i sacrifici non possono togliere i peccati, ditemi, chi altri li può togliere se non Gesù Cristo? 5. Cose impossibili riferite alla vita cristiana. Quando Dio salva una persona, non la porta subito in cielo, ma la lascia sulla terra per affidarle dei compiti. È vero che la vita è piena di sorprese, ma vi anche sono cose che sono impossibili, come ad esempio che un uomo non commetta mai errori. Così anche nella vita cristiana. Non è sufficiente essere dei figli di Dio perché tutto vada bene. Occorre anche adempiere ad alcuni requisiti per essere graditi a Dio, portare frutto, essere discepoli di Cristo e servirlo. Ebrei 11. Sì, senza fede è impossibile piacere a Dio. Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Questa verità si applica a due categorie di persone. La prima fra queste è formata da coloro che non credono all'Evangelo. Essi possono compiere qualsiasi cosa al fine di piacere a Dio, ma gli saranno graditi solo credendo nella sua esistenza e che Egli premi a chi lo cerca. La seconda categoria è formata dai cristiani. Diventando figli di Dio, uno dei primi impulsi che si provano è quello di piacere al proprio Salvatore. Per questo molti si buttano nell'attivismo. Se non siamo uomini di fede, in pratica, se non corrispondiamo con atti e parole a ciò che Dio ci rivela, manchiamo il vero obiettivo. Le promesse di Dio condizionano la tua vita, i doni che Dio ti ha dato mettono in evidenza la sua potenza. Se le risposte sono negative, la replica di Dio è solenne. Figlio, se non hai fede, è impossibile che tu mi piaccia. B. Giovanni 15:4-7 è impossibile portare frutto se non si dimora in Cristo. Gesù disse, dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Gesù Cristo salva coloro che ripongono fede in Lui. La salvezza che Gesù offre non ha lo scopo di rendere la vita del credente un beato e felice e inoperoso susseguirsi di giorni, ma un cammino pieno di frutti. Il lavoro è uno dei principi fondamentali di Dio. Gesù non ha comandato di fare qualcosa, ma, al contrario, ha sottolineato che chi è qualcosa da fare, cioè dimorare in Lui, vivere secondo i Suoi principi. E questa vita intima con Gesù che produrrà opere giuste e giuste preghiere, secondo la volontà di Dio. Lo sforzo del credente, vale a dire il suo impegno, non sarà tanto di buttarsi a fare qualcosa, quanto invece di stare alla presenza di Gesù Cristo, dimorare in Lui. È difficile, per una natura ribelle come la nostra, credere di non aver nulla di buono da offrire a Dio. Gesù ha sostenuto però che senza una vita unita a Lui, nulla di ciò che noi compiamo potrà essere gradito a Dio. Non ci resta quindi che tenere gli occhi fissi su Lui. Questo comporta tutta una serie di atteggiamenti conseguenti. A. Occorre desiderare di volere portare frutto. 1. È necessario stare in comunione con Lui mediante la preghiera e la lettura della parola di Dio. 2. Bisogna essere decisi a volersi separare dal male ed evitare le tentazioni. 3. È essenziale esprimere la propria fede con altri figli di Dio. Gesù assicurò che è impossibile portare frutto se non si dimora in Lui. Non ci resta che accettare questa sentenza e trarne le conseguenze. C. Luca 14, 25-33. È impossibile essere discepoli di Cristo se Egli non ha il primo posto nella nostra vita. Gesù disse, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie, figli, fratelli e sorelle e perfino la sua propria... E chiunque non porta la sua croce e mi segue, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo, per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non comincino a beffarsi di lui, dicendo, quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Ovvero quale re, andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può, con 10.000, affrontare colui che gli viene contro con 20.000. Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Tutti noi dovremmo aver capito questo. Abbiamo dei limiti. Quali esseri limitati, di conseguenza? Non possiamo arrivare a fare tutto. Dobbiamo fare perciò delle scelte. Per questo Gesù ci avverte categoricamente che non possiamo seguirlo se non cediamo a lui il primo posto. Egli è categorico. Se non rinunci a tutto ciò che hai e che sei, non puoi essere mio discepolo. La rinuncia di cui parla Gesù non ha il senso di fare a meno o togliere. Se questo fosse il senso, rinunciare alla propria vita vorrebbe dire uccidersi. Rinunciare a qualcosa significa vivere come se quella cosa non fosse nostra. Così, se sei sposato, se hai una famiglia, se hai dei beni, tu devi vivere come se non l'avessi. Così è perfino della tua vita. Essa non ti appartiene, la tua volontà deve essere sottomessa a quella di Cristo. La ragione è molto semplice. Se Gesù è il tuo Signore e tu vuoi seguirlo, devi essere libero da ogni legame. Nessuna cosa, nessuna, deve essere più importante di Gesù. Qualsiasi affetto o cosa cui tu non sia disposto a rinunciare saranno un ostacolo alla tua volontà di seguire pienamente colui che ha dato tutto per te. Sii cosciente che, se hai ancora qualcosa o qualcuno, che per te sia più prezioso di Gesù Cristo, è impossibile che tu ti ritenga suo discepolo. Dato Luca 17:1-2 è impossibile che non avvengano scandali. Gesù disse ai suoi discepoli, è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. Tutti desideriamo una vita serena e pacifica, senza turbamenti o scossoni, soprattutto quando il mondo è sconvolto da guerre e terrorismo. Gesù ci ha avvertito però che dovremo far fronte agli scandali. Gli scandali sono quegli avvenimenti a causa dei quali una persona inciampa in modo inesorabile nella fede, perdendo il desiderio di avvicinarsi a Dio. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 24, Gesù rileva una ragione che potrebbe indurre una persona a rimanere scandalizzata. Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Gli scandali sono inevitabili. Gesù ci allerta però a non esserne noi stessi gli autori. È impossibile che non avvengano degli scandali, ma è possibile invece da parte nostra evitarli. Ognuno di noi si chiederà in che modo essi possano essere evitati. Credo che l'osservazione di una sola regola, dataci da Gesù stesso, sia sufficiente: fare agli altri quello che si vorrebbe che gli altri facessero a noi. E Luca 16:13 è impossibile servire due padroni. Gesù disse, nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. La profondità del messaggio di Gesù è nella sua stessa semplicità. Nessuno prima di lui aveva fatto notare l'impossibilità di essere fedeli a due padroni contemporaneamente. Esistono in questo mondo infatti due padroni. Uno è Dio, vale a dire quello vero, l'altro, Satana, è l'usurpatore. Nessun uomo può essere fedele ad ambedue. Il denaro fa andare l'acqua in su, esclamò un giorno, ironicamente una donna, confermando, senza saperlo, ciò che riconosce anche la parola di Dio. Il denaro risponde a tutto, Ecclesiaste 10:19. Il denaro, detto altrimenti Mammona, senza che ce ne rendiamo conto, è anche un padrone che esige obbedienza. Chi non vede il denaro sotto quest'aspetto molto probabilmente lo sta servendo. Spesso ci rendiamo conto del suo potere quando giunge il momento di separarcene. Solo colui che realizza Dio come suo padrone può essere libero dal potere del denaro. 6. Cose impossibili per ciò che riguarda la perdita della salvezza. A. Giovanni 10:25-30 è impossibile rapire i credenti dalla mano di Dio. Gesù rispose loro, io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio, io e il Padre siamo uno. La parola di Dio paragona spesso i credenti a delle pecore, animali che non hanno alcuna difesa. Lasciati a se stessi, essi non sanno dove andare. Gesù presenta se stesso come il pastore, colui che ama, difende le pecore e che indica loro la strada da seguire. Proprio per questa relazione Gesù infonde nel credente una sicurezza divina. Gesù afferma che le pecore sono nella sua mano. L'avere qualcosa in mano significa possederla. Dio possiede la vita dei suoi figli perché loro l'hanno affidata a lui. Il diavolo, l'avversario, vorrebbe scalzare i figli di Dio da quella posizione, ma Gesù ci ha rassicurato che nessuno può strapparli dalle mani di Dio, con riferimento proprio al maligno. La sicurezza dei cristiani non si fonda sul loro operato né sulle loro convinzioni o tantomeno sulla giusta interpretazione della volontà di Dio, ma sulla loro posizione. Se tu hai consacrato la tua vita a Dio, se hai ceduto la tua volontà alla sua, sappi per certo che Lui ha preso sul serio il tuo gesto. Perciò puoi rallegrarti in Cristo, perché è impossibile perdere la posizione nella quale ti trovi. Sei nelle mani di Dio. B. Romani 8, 31-39 è impossibile separare i cristiani dall'amore di Dio. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada. Come sta scritto, per amor tuo, siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Con queste parole Paolo esplode in un inno di riconoscenza. Dopo aver considerato che l'uomo è un peccatore, che è reso giusto per la grazia di Dio, dopo aver compreso che chi è stato giustificato appartiene a Dio, l'Apostolo si chiede ora chi potrà mai giudicare colui che Dio ha giustificato e chi potrà mai condannare colui per il quale Cristo è morto. La conclusione è nessuno, neppure potenze presenti e future. Questo brano è, per chi ha posto fede in Gesù, motivo inequivocabile per cui essere certo di appartenere per sempre a Dio. Per apprendere il meraviglioso messaggio di questo brano, cerchiamo di porci le domande al contrario. Se Dio è contro di noi, chi sarà per noi? Se Dio ci rifiuta Cristo, come ci donerà il resto? Se Dio ci condanna, chi ci giustificherà? Se non vi è un Salvatore, chi ci salverà? Se non siamo amati per grazia, chi ci amerà? Di fronte a questi interrogativi, sarei spaventato se non fossi un figlio di Dio. Ringrazio il Padre Celeste, perché il suo piano di grazia mi assicura che, tramite Cristo, è impossibile che io non sia da Egli amato. La morte di Gesù Cristo sulla croce, avvenuta nel tempo e nello spazio, ha un valore eterno. Per questo l'amore di Dio non è limitato nel tempo, ma è una realtà che rimane stabile per l'eternità. 7. Cose impossibili alla morte. A. 1 Timoteo 6, 6-8 è impossibile portare alcunché con noi nell'aldilà. Ora la pietà è un mezzo di grande guadagno, quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla, ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Tutti sappiamo che, alla nostra morte, non porteremo nulla nell'aldilà. Vi sono comunque persone che vivono come se questa realtà non li riguardasse. Ecco la descrizione che ne fa la Scrittura. Infatti tutti vedono che i savi muoiono e che nello stesso modo periscono gli stolti e gli insensati e lasciano ad altri i loro beni. Internamente essi pensano che le loro case dureranno per sempre, le loro abitazioni siano eterne e così danno i loro nomi alle terre. Eppure anche l'uomo che vive nelle ricchezze non dura. Egli è simile alle bestie che periscono. Salmo 49, 10-13. Sì. Si comporta come una bestia, colui che pensa solo a questa vita, non interessandosi di quella futura. La persona saggia si occuperà di conseguenza delle cose terrene, senza però trascurare quelle che durano in eterno. Non è completamente vero, però, che non porteremo con noi proprio nulla. Colui che ha rifiutato l'opera di Cristo porterà con sé i propri peccati. Davanti al tribunale di Dio, egli non potrà avere nessuna scusante per le sue colpe e per questo egli sarà condannato. Il cristiano porterà anche egli qualcosa con sé, le opere compiute, quelle che risulteranno ad onore della propria gloria, saranno bruciate, quelle fatte invece per fede saranno premiate. È impossibile quindi portare qualcosa di terreno nell'aldilà. Porteremo soltanto i valori spirituali. Sei tu pronto a portare i frutti della tua fede in Gesù Cristo? B. Luca 16 e 26 è impossibile per i morti cambiare luogo. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro, che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe, ulcerose, e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, morì anche il ricco e fu sepolto. E essendo tra i tormenti nell'inferno, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora gridando disse: Padre, Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare di là a noi. Uno degli inganni più grandi in cui l'uomo possa cadere è quello di pensare che, dopo la sua morte, egli potrà cambiare luogo, come qui cambiamo città. Gesù ha dichiarato che questo non è possibile. Chi sarà perduto rimarrà perduto, chi andrà in cielo vi rimarrà. Oggi tu puoi decidere dove passerai l'eternità, se con Dio oppure lontano da Lui. Oggi sei libero di scegliere il tuo futuro, ma non puoi decidere la conseguenza di questa tua scelta. Se è impossibile che la parola di Dio non si avveri, se è impossibile che Dio menta, se è impossibile che tu possa salvarti con le tue forze, è altresì impossibile che, se tu hai scelto la perdizione, tu possa in seguito essere salvato, dopo la morte. Non vi è più possibilità di redenzione o di perdizione. Isaia 38:18. Come sta scritto, se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade, là rimane. Ecclesiaste 11:3. Queste sono alcune delle cose che si avvereranno immancabilmente. A volte siamo convinti che certe cose non possano succedere, poi quando avvengono rimaniamo profondamente delusi se non scandalizzati. Nessuno di noi avrebbe creduto che l'uomo secondo il cuore di Dio, Davide, potesse macchiarsi di omicidio e adulterio. Eppure così fu. Nessuno di noi avrebbe creduto che Pietro, un apostolo così zelante, pronto a dare la sua vita per il suo maestro, potesse rinnegare Gesù. Eppure successe. Così tutto quello che abbiamo esaminato si compirà. Non ti resta che prendere sul serio ciò che hai udito della parola di Dio, perché passeranno cieli e terra, ma ciò che Gesù ha detto si compirà. Di questo puoi essere certo. Aprile 1984. Ellero.